Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora ben trovata l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico per affrontare un altro argomento di stretta attualità. Ben trovata Gioia. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, parliamo di tassi usurari, cioè evidentemente troppo alti per essere legali, giusto? Esatto. Sì, è necessario, prima di partire con questo discorso, fare una brevissima premessa, ovvero ogni 3 mesi la nostra Banca d'Italia fissa un tasso soglia che, oltre al quale l'interesse che viene applicato dalle banche e dagli altri istituti di credito viene considerato usurario. Questo tasso soglia, come detto prima, varia trimestralmente e adesso è intorno all'8,5% rispetto all'importo totale del prestito che una persona chiede o comunque all'importo totale del finanziamento. Diciamo che nell'ultimo periodo, soprattutto in seguito al servizio televisivo delle Iene di Striscia la Notizia, abbiamo ricevuto qui in associazione moltissime segnalazioni di nostri soci che ci chiedono di verificare se il contratto di mutuo in loro possesso o i tassi di interesse applicati al loro finanziamento siano usurari o meno. Ecco, noi di Adico ci siamo mossi in questa direzione, ci siamo subito attivati per tutelare i nostri soci e per accontentare le loro richieste e abbiamo stipulato una convenzione con un commercialista, o meglio con un perito esperto in materia, che sta fornendo e fornirà ai nostri soci una relazione contenente l'indicazione dell'usurarietà o meno dei tassi presenti nel contratto analizzato. E successivamente, nel caso in cui ci siano gli estremi per agire, noi come associazione attiviamo poi una sorta di transazione o comunque facciamo una segnalazione all'istituto di credito competente per ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente. Restituzione che vale sia per mutui in corso che anche per mutui già estinti. Sì, esatto, diciamo che sia il contratto di mutuo come il contratto di finanziamento sono dei semplici contratti e quindi come tale trova applicazione la nostra disciplina codicistica. La parte all'interno di questo contratto c'è una clausola che prevede i tassi di interesse da applicare al finanziamento, al mutuo, al prestito. Nel caso in cui si verifichi che quel tasso sia usurario, quella clausola viene considerata nulla, quindi il contratto rimane in vita e viene invalidata la clausola relativa ai tassi nel caso in cui vengano considerati usurari. E ciò cosa consente? Consente che per il futuro il socio, comunque il contribuente, continuerà a pagare la somma capitale del finanziamento o del mutuo, mentre per il passato la nullità di quella clausola ha valore retroattivo. Ciò significa che per tutte le somme che il socio ha pagato in eccedenza, questo ha diritto di richiedere la restituzione. Quindi facciamo un esempio: se io ho un contratto che vale 100 e ogni mese devo pagare, non so, 10%, non so, l'8% del tasso usurario, da oggi in poi il 10% di interessi, nel caso in cui sia usurario, io da oggi in poi ho il diritto di restituire solamente la somma capitale, quindi senza pagare ogni mese quell'8% sulla rata. Per quanto invece riguarda il passato, io ho il diritto di ottenere quell'8% per tutti i mesi in cui io ho pagato un interesse che non era dovuto. Ovviamente i calcoli qui sono è difficile entrare nei dettagli, perché chiaramente i tassi poi vengono applicati e spalmati magari su tutta la durata del mutuo. Uno magari è facile che non se ne accorga, no? di pagare un tasso troppo alto. Sì, esatto, a parte quello, ma poi è anche possibile che per tutti coloro che hanno dei finanziamenti o dei mutui che hanno un tasso variabile, è anche possibile che inizialmente quei tassi di interesse non erano considerati usurari, ma lo sono diventati col passare del tempo, perché cambiando il tasso di interesse e cambiando il tasso soglia imposto dalla Banca d'Italia, è possibile che quel tasso lo sia diventato usurario e che magari sia partito come un tasso perfettamente legittimo. Ecco, quindi noi proprio per questo abbiamo stretto questa convenzione con un esperto in materia che provvederà ad un costo assolutamente convenzionato, oserei dire quasi irrisorio, a stilare una redazione che permetta di verificare se quel tasso è o meno usurario. Ecco, ci sono ovviamente normalmente le banche di mezzo, banche o finanziarie. loro sono tenuti a darci l'informativa del tasso, oppure viene data la notizia per conosciuta, dato che è la Banca d'Italia che ogni 3 mesi fa questo aggiornamento? Ah no, beh, guarda, per quanto riguarda il tasso è semplicissimo, basta andare sul sito della Banca d'Italia, ma è facilissimo, basta cliccare in Google tassi Banca d'Italia e viene subito fuori la schermata dei tassi soglia, cioè vengono proprio pubblicati trimestralmente dalla Banca d'Italia e rimangono anche in archivio, quindi noi possiamo andare indietro fino a 10 anni anche per visionare questi tassi, perché ricordiamoci che per ottenere questa restituzione di quanto pagato indebitamente noi possiamo agire retroattivamente fino a 10 anni fa, perché il nostro codice lo consente, quindi anche per quando noi andremo a valutare i tassi soglia nel sito della Banca d'Italia, automaticamente noi potremo visionare tutti i tassi soglia da oggi fino a 10 anni fa. Quindi anche se la banca non è tenuta a darci queste informative, noi possiamo tranquillamente individuarle nel nostro sito, tranquillamente individuarle tramite internet, insomma. Diciamo che è difficile comunque capire appunto i dettagli, per questo è meglio affidarsi agli esperti, perché chiaramente poi anche la quota parte di interessi, la quota parte di capitale comportano dei conti e dei conteggi, insomma, che non sono sempre facili da capire per le persone semplici come noi, e quindi è bene affidarsi a degli esperti, e proprio per questo c'è questa convenzione con un commercialista attivata dall'Adico. Quindi se avete bisogno, associazionedifesaconsumatori.it per ulteriori dettagli. Grazie allora intanto all'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico, ci ritroviamo la settimana prossima con altri 2 argomenti. Grazie, arrivederci. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.